sono le 19:31 di giovedì 29 febbraio 2024 e non so come dire, quando torno dall'ufficio io ogni tanto mi ostino a fare delle escursioni tra i podcast, come dire, professionali, vogliamo chiamarli così, per capire se è cambiato qualcosa, se si va verso qualche linguaggio nuovo o se si continua con queste voci veementi, con questa voglia di trasformare tutto in un titolo. E tra l'altro anche con spesso nei credits, che occupano puntualmente quasi metà ormai dei podcast, perché i credits servono a che cosa? Servono a ricordarci che quello è un podcast professionale, no? E quindi una lunga sequenza di persone da menzionare in redazione, il producer, questo, quest'altro. Va benissimo, per carità. Poi è anche bellissimo quando dicono le fonti citate sono tutte menzionate puntualmente nella sinossi, no? Poi qualcuno ha stabilito quindi che la formula esorbita, diciamo, dal contenuto audio, quindi diciamo se lo autointesta, no? Questa decisione normativa, che visto che parlavamo di standard de facto, va benissimo, io non ho problemi, però il fatto di doverlo dichiarare, no? Sempre con questa voce che sembrerebbe quasi voler fare scuola, non fate anche voi così, no? Menzionate le fonti nella sinossi. E quindi io mi immagino tutta una fila di aspiranti podcaster che fanno head nodding, no? Per dire, vedi, se voglio essere un podcaster devo fare anch'io questa cosa. Questi titoli, queste sigle, questo bumper, va benissimo. Dico soltanto che io continuo ad apprezzare di più tutte le voci che si sentono nei podcast e che mentre parlano non sanno di essere in un podcast, no? Per esempio, appunto, anche la voce di Barbero, che ormai ha il suo podcast consapevole, ma Barbero lo apprezziamo di più proprio quando non sa che si trova in un posto dove deve gestire 8-9 minuti, no? Ma dove magari è una conferenza, c'è qualcuno che integralmente la registra e poi sta a chi ascolta capire se ha senso fare un investimento in un'ora di ascolto e poi magari scoprire che proprio quello è il livello di approfondimento di cui c'è bisogno, perché il podcasting significa poter recuperare i nostri tempi, decidere noi, scegliere non solo i contenuti ma anche i tempi e quindi i linguaggi. E tutte le volte invece che qualcuno comprime per dover obbedire a un vincolo temporale di linguaggio eccetera, che cosa fa? Sì, ripete a se stesso e a noi in eterno che sta facendo podcasting e in realtà fa la radio, che è una cosa bellissima, ma è un'altra cosa.